Letture di Radio 24. I nuovi papà in Gran Bretagna potranno prendere fino a 10 mesi di aspettativa per paternità sulla base di un nuovo programma del governo di coalizione che permette a entrambi i genitori di dividersi nella cura dei figli. La riforma è tesa a dare maggiore flessibilità ai genitori nel decidere su chi va al lavoro e chi resta a casa. Al momento gli uomini hanno diritto a soltanto 2 settimane di aspettativa quando arriva un figlio, mentre secondo la nuova proposta le mamme avranno d'ufficio le prime 6 settimane di aspettativa, dopo le quali i genitori potranno decidere in autonomia come dividersi i mesi che restano. Il Regno Unito concede ai neopapà di occuparsi di figli, pappe e pannolini, non solo simbolicamente per 2 settimane, ma fino a 10 mesi, in alternativa alla mamma. La proposta del vice premier Nick Clegg è considerata una delle più innovative in un'Europa i cui capi di governo hanno appena bocciato la direttiva dell'Europarlamento che prevedeva l'estensione delle regole di tutela della maternità perché giudicate troppo costose e dunque insostenibili. Quella di Clegg è considerata una legge costosa e infatti protestano le associazioni degli imprenditori. Il problema è che rischia di essere costosa anche per la famiglia, proprio come la legge italiana che garantisce la scelta del congedo parentale, 6 mesi in tutto, tra mamma e papà. Ma poiché la retribuzione è al 30%, è spesso troppo penalizzante per le risorse familiari se a restare a casa e a secco è il padre. Anche Clegg pensa ad un sistema con una retribuzione ridotta, ma ahimè, senza uno stipendio più o meno integrale, un papà a casa è troppo spesso un lusso. Poi è anche una questione culturale, se sia meglio il capufficio o il cambio del pannolino, ma innanzitutto e quasi sempre viene vissuta come un problema economico. Nella proposta di Clegg, però, c'è un altro punto innovativo e non costoso. Pur senza prendere impegni in proposito, il vice premier inglese introduce un tema sul quale converrà interrogarsi in futuro. Orari e impegni flessibili al lavoro potrebbero essere l'uovo di Colombo per permettere la conciliazione tra lavoro e famiglia non solo per le madri, anche per i padri, e non per 10 mesi, ma per l'intera vita dei propri figli. Segnalano infatti i dati raccolti dal governo inglese che, a parte la cura del neonato, il tema più sentito da padri e madri lavoratori e lavoratrici, il più frustrante, è quello dell'educazione dei figli, del contatto con loro quando crescono, del senso di colpa dell'assenza per motivi di lavoro. Varrebbe la pena di rifletterci. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Se il congedo dei neopapà inglesi in Italia è ancora un lusso, a firma di Gianna Fregonara e pubblicato dal Corriere della Sera di lunedì 17 gennaio. Letture di Radio 24. Il Belgio è uno stato federale, a nord i fiamminghi e a sud i valloni. In mezzo la regione di Bruxelles capitale che fa da area di compensazione, essendo delle 3 zone l'unica bilingue. A causa dell'incapacità dei partiti valloni e fiamminghi di trovare un accordo sulla ripartizione delle competenze tra le diverse componenti linguistiche, il paese è senza un governo da oltre 200 giorni. Una situazione imbarazzante, tanto che un collettivo di giovani belgi si è dato il nome di Shame, che in inglese significa vergogna, e ha organizzato per il 23 gennaio una manifestazione a favore della creazione di un governo, qualsiasi esso sia, ma che almeno governi. I belgi hanno deciso di scendere in piazza per manifestare in favore del governo. Quale? Non lo sanno. La loro sarà la prima protesta forzatamente bipartisan della storia, visto che l'assenza di un esecutivo porta con sé l'impossibilità di dirsi d'opposizione o maggioranza. Uniti nella crisi senza fine, grideranno contro la politica priva di attributi e i deputati eletti il 13 giugno scorso, che da 218 giorni discutono senza esito su chi e come debba guidare il paese. Si sono stufati e hanno ragione. Nel paese in cui il federalismo è sulla carta semi-perfetto e la convivenza fra 2 nazioni assai diverse ha creato un numero quasi equivalente di problemi e soluzioni, ma ha sfrangiato la politica, la gente non sa più cosa fare. Gli osservatori cominciano a sottolineare il rischio della paralisi. gli economisti avvertono che l'uscita dalla crisi richiede un nocchiero. Il Belgio è il terzo paese per debito in Europa. Ha un passivo storico che vale il 100%. Prima del voto era 53esimo nella classifica globale dei sistemi a rischio bancarotta. Oggi è 16esimo, dopo il Libano. Anche Alberto II, per costituzione re dei Belgi, ha perso la pazienza, cosa che gli è valsa il titolo di Uomo dell'Anno, attribuito da una serie di giornali e TV. Ha diffuso un comunicato per chiedere al premier dimissionario Yves Leterme, DC Fiammingo, di rendere la manovra finanziaria 2011 più rigorosa rispetto agli obiettivi concordati con l'UE. Ha ragione, si rischia grosso. Il governo non si fa perché è difficile quanto comporre il cubo di Rubik. Il Belgio è diviso in due fra Fiandre e Vallonia, i ricchi e i poveri, il che si riflette sull'amministrazione federale decentralizzata e nella duplicazione di tutto ciò che conta, dalla lingua ai partiti. Con la complicazione che DC, socialisti, liberali e verdi belgi hanno decine di ragioni storiche per litigare senza requie. Per oltre 210 giorni si è trattato, da una settimana nemmeno quello. A dicembre l'agenzia di rating Standard & Poor's ha detto che se entro 6 mesi il Belgio non avrà un governo, dovrà declassare il suo outlook. Uscita surreale, e in effetti c'è molto di magrittiano nell'intera vicenda, come nella rabbia e nel sarcasmo che anima la protesta. Una delle stelle del cinema locale, quel Benoît Pelvorde visto in Kill Me Please, ha proposto ai connazionali di non radersi sino a che non ci sarà un accordo. Un giovane fiammingo ha aperto un sito, Camping 16, dove si può parcheggiare virtualmente una tenda davanti all'ufficio del premier e chiedere il rimborso delle tasse perché la politica non fa il suo dovere. Sono arrivati a 106.000 unità. Viene poi Shame, cioè vergogna, pagina web che prelude alla manifestazione del 23, e infine Belgio campione del mondo, dove si fa il conto alla rovescia verso il momento in cui la crisi di governo batterà il record iracheno di 289 giorni. Ne mancano ancora 71 per evitare l'onta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il Belgio come l'Iraq, diviso e senza governo, a firma di Marco Zatterin e pubblicato dalla Stampa del 17 gennaio. Domenica che ci siamo lasciati alle spalle c'è stata una nuova tappa del tour dei rottamatori, i giovani di Area PD che vogliono prendere in mano le sorti del centro-sinistra. Non siamo rottamatori, ma carrozzieri, dicono. Ma intanto non risparmiano bordate e critiche all'establishment del PD, dalle primarie alla gestione di questa fase di opposizione. Tra di loro anche la nipote di Romano Prodi, Maria Chiara, 32 anni, da 7 a Parigi per lavoro. Siamo stufi della retorica dei cervelli in fuga. Primo perché non ci riteniamo più intelligenti della media. Poi perché non scappiamo da nulla, ma cogliamo un'opportunità che in Italia magari non ci è data. Si presenta così Maria Chiara Prodi, nipote di Romano Prodi. Tocca a lei il secondo intervento di prossima fermata Bologna. Treno dei rottamatori, ma loro preferiscono carrozzieri. Il momento non è casuale. Domenica prossima si terranno le primarie di centrosinistra e dunque l'occasione viene sfruttata, oltre che per far intervenire i 3 candidati, anche per parlare delle prospettive di Bologna. I 500 posti a sedere della multisala Nosadella non sono tutti occupati. I toni sono diversi da quelli della stazione Leopolda e manca il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Si prova a mettere al centro idee e proposte. Una risposta, dice Civati, a chi dice che insultiamo. O magari che siamo bravi a comunicare ma non abbiamo sostanza. Una sostanza che è anche forma e che si concretizza attraverso volti, nomi, immagini. 5 minuti secchi a testa per parlare, ognuno porta una fotografia proiettata sullo schermo e una parola chiave. Quella di Maria Chiara Prodi è mondo. Vivo a Parigi da 7 anni, esordisce la ragazza. Sono assistente artistica al Théâtre National de l'Opéra Comique, dove è nata la Carmen di Bizet. All'estero, tutte le volte che mi presento, non devo perdere tempo a spiegare che sì, sono la nipote di Romano Prodi. E no, non sono raccomandata da nessuno. Laureata in scienze della comunicazione, diplomata al conservatorio e con un master alla Bocconi, Maria Chiara sa cosa vuol dire la partecipazione. da referente di Libera nella capitale francese, ha fatto iniziative mettendo insieme una serie di associazioni. E ora è tra i fondatori di Exbo, una rete fra bolognesi espatriati fra i 30 e i 40 anni. I bolognesi iscritti all'AIRE, l'elenco degli italiani all'estero, sono 20.000, ma si calcola che siano il doppio. Ci sono architetti, medici, ingegneri a Shanghai, Berlino e Haiti. Exbo punta a esportare le buone idee che vediamo all'estero sotto le due torri, ma anche a essere una finestra per mostrare al mondo le eccellenze della nostra città. A primavera, quando Bologna avrà un nuovo sindaco, chiederemo di aprire una linea di finanziamento per le nostre proposte, dice Maria Chiara, che di seguire le orme dello zio non ha proprio intenzione. Ma perché allora parlare a una platea politica come quella dei rottamatori? Tutti i discorsi sulle etichette sono futili. Anzi, quando li avete finiti, chiamateci, osserva. Io qui vedo i miei ex compagni di liceo, dell'università. C'è un potenziale da sfruttare che va ben oltre i partiti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La nipote di Prodi fra i rottamatori, il PD sfrutti il nostro potenziale, a firma di Andrea Bonzi e pubblicato dall'Unità del 17 gennaio.